24 mattino, l'Italia si desta. Siamo qui alle 7:19 minuti, non sentite un'aria oggi più leggera, più frizzante, più europea? Da Champions League, diciamo così, no? Ecco, mi sento così un po' da Champions League. Va bene, sono le 7:20 minuti, cari debosciati, svegliatevi, è tempo di andare a lavorare. E vabbè, da Champions League, poi magari sentite l'aria frizzante. E poi magari spiegheremo perché, insomma, per chi... per i 3 o 4 che non hanno capito ancora. Allora, oggi parleremo di questa notizia che proviene dall'Uruguay, altro mondo, lontane località, ma un dibattito che si rinfocola anche in Italia. Infatti tutti i giornali oggi ne parlano. In Uruguay hanno deciso di dire sì alla marijuana, alla coltivazione della marijuana da parte dello Stato, e quindi di un controllo da parte dello Stato della marijuana e del mercato di questa droga, e questo per sconfiggere il narcotraffico. Innanzitutto, nel paese sudamericano si potrà comprare in farmacia. Il dibattito è molto molto diffuso in tutto il mondo tra proibizionisti e antiproibizionisti. Ne parleremo in Italia anche, avremo ospiti due politici ben contrapposti su questo tema. Carlo Giovanardi, che sapete è un acerrimo nemico di questo tipo di impostazione, Marco Cappato, che invece è un sostenitore di questo tipo di impostazione antiproibizionista. Ne parleremo alle 8:15 anche con i vostri ospiti, con i vostri ospiti, sì, insomma, è l'aria da Champions League. Non è la marijuana, tranquillizzo tutti, con le vostre telefonate, e intanto andiamo a leggere i giornali. In questo giovedì 12 dicembre i titoli, il Sole 24 Ore, nuovo inizio, risorse al cuneo. Questa è una frase di Enrico Letta estrapolata dalla richiesta di fiducia, dal discorso di fiducia ieri, fiducia ottenuta a Senato e Camera. Anche per il Corriere della Sera, fiducia per Letta, riforme e sfida a Grillo. La Stampa, Renzi sfida l'alleato Alfano. È tutta politica oggi, eh? Repubblica, Letta sfida Grillo, basta caos. Libero, è solo un governicchio, sotto la fiducia niente. Il Messaggero, fiducia a Letta, no ai forconi. Mentre il Giornale evoca con questo titolo palazzi bollenti, guardate e sentite bene, forconi in Parlamento. Questo è il titolo, sembra più un'invocazione o chissà cosa per il Giornale. Il Fatto Quotidiano, il nuovo inizio di Letta, i soldi ai partiti restano. Questo è il titolo di prima pagina, mentre per il Secolo XIX non cederemo ai forconi. È ovviamente Enrico Letta che lo dice. Per Avvenire, stop ai populismi, fiducia piena a Letta. Mentre per l'Unità, Letta sfida Grillo, basta caos. Il Manifesto invece si concentra sul lavoro. 100, il titolo è Fabbrica di cartone, 100 scatoloni ognuno per ogni azienda in difficoltà che non trova risposte. Questo è in questo caso la protesta degli operai della Targetti, ma anche di tante altre aziende, Fiat, Italtel, Electrolux, insomma la protesta degli operai e il posto di lavoro in a rischio. Allora, come detto, noi parleremo alle 8:15 di questa vicenda che proviene dall'Uruguay, ma tutti i titoli di giornali sono concentrati su questo tema. Il Corriere della Sera, marijuana libera nel mondo, l'Uruguay rompe un tabù. Rocco Cotroneo ne scrive a pagina 17, è dunque un piccolo paese, appena 3 milioni e mezzo di abitanti, a rompere di colpo tutti i tabù sulle droghe leggere. In Uruguay la marijuana si potrà coltivare o comprare in farmacia, lo Stato seguirà tutta la catena dalla scelta dei semi fino alla quantità permessa al consumatore finale. C'è il voto finale del Senato che sarà martedì sera, cioè è stato martedì sera, ha ufficializzato la svolta, manca la firma del Presidente, ma il Presidente sicuramente Mujica, essendo un ex guerrigliero, firmerà ed è dunque scontata la firma. Dopo aver studiato esperienze simili in giro per il mondo, la sinistra, il governo nel paese ha deciso per una regolamentazione totale, facendo nascere di fatto il primo spinello di Stato. E guardate, tutti i giornali ne parlano, la sfida dell'Uruguay, marijuana di Stato per fermare i narcos. Questo è il titolo di pagina 38 di Repubblica. Si va anche al più esplicito titolo del manifesto, che dedica con Filippo Fiorini una pagina, pagina 16, a questo tema: e ora piantatela. E piantatela si riferisce proprio al, come dire, al gesto di piantare i semi di marijuana. L'Uruguay approva la legge che regola il mercato della marijuana dopo una dura battaglia parlamentare, malgrado il 61% dei cittadini resti contrario, c'è il via libera all'esperimento che punta a sconfiggere narcomafie e politiche proibizioniste. Dopo 13 ore di discussione, 13 voti contrari, ma non sono bastati a fermare il progetto di legge per la regolamentazione del mercato della cannabis in Uruguay. La marijuana è ufficialmente legale e tra meno di 6 mesi sarà possibile coltivare, comprare, fumare erba senza troppe noie per tutti i cittadini e residenti che abbiano raggiunto la maggiore età in Uruguay. La norma, che per il ruolo centrale dello Stato e per il permesso di produzione riconosciuto ai singoli, dà alla piccola Repubblica Sudamericana un primato mondiale in fatto di diritti, permetterà il consumo per 3 ragioni centrali: le terapie mediche, la ricerca scientifica, ma anche gli scopi ricreativi contro un'unica grande minaccia, che è il narcotraffico. Anche La Stampa dedica una pagina a questo tema con Emiliano Guanella, pagina 15. L'Uruguay rompe il tabù, sì alla marijuana di Stato, il via libera al Parlamento, la droga sarà messa sul mercato. Una legge bocciata dall'ONU, ma che in Uruguay è stata fatta. Ne parleremo alle 8.15. Ricordiamo invece, e voglio citare, alcuni articoli che riportano in auge la polemica sul cosiddetto metodo Stamina. Sapete che è stato bocciato dalla commissione scientifica del ministero, ma poi il TAR ha bocciato la commissione scientifica, quindi bisognerà rifare tutto. Il metodo Stamina è un trattamento terapeutico inventato da Davide Vannoni, una tecnica che per la maggior parte della comunità scientifica non ha alcun valore scientifico. Davide Vannoni dice: guardate, i bambini che sono curati con questo metodo stanno facendo dei progressi. Il dato di fatto è che ieri un altro tribunale, questa è la incredibile situazione in Italia, un altro tribunale ha dato il sì ad applicare il metodo Stamina per una bambina, Noemi, una bimba che è stata anche ricevuta dal Papa, malata gravemente, racconta il Corriere della Sera. Sia Stamina per Noemi, la bimba ricevuta dal Papa. Margherita De Bacca, pagina 23. Sono i tribunali a gestire Stamina, il metodo a base di cellule del midollo spinale non riconosciuto come cura. La conferma è l'ultima delle decine di sentenze, circa 60, grazie alle quali altrettanti pazienti hanno potuto ricevere le infusioni presso gli ospedali civili di Brescia. Stavolta i giudici dell'Aquila hanno dato ragione ai genitori di Noemi, 18 mesi, che hanno lottato affinché non le fosse negato quel trattamento. E tutti i giornali titolano così, anche sul giornale: può curarsi con Stamina, quinta sentenza per Noemi. Oppure Repubblica, via libera alle cure per Noemi. Il padre della piccola dice: una gioia immensa, una grande speranza. Poco importa evidentemente che questo metodo non sia al momento riconosciuto e non sia validato dalla comunità scientifica per i tribunali, in questo evidentemente anche vuoto legislativo, in questo marasma in cui non si capisce bene chi possa applicare una cura, i genitori si rivolgono ai tribunali e i giudici, i magistrati stabiliscono le cure sanitarie delle persone. Allora, la politica. Ieri Enrico Letta si è presentato al Senato, alla Camera, ha ottenuto la fiducia, una sorta di ripartenza, ora nuovo inizio come titolo, pagina 3 del Sole 24 Ore. La fiducia è arrivata dunque per Enrico Letta, era abbastanza scontata nei numeri, ma è stata una giornata dove chi l'ha seguita a livello parlamentare, insomma, c'è un Enrico Letta che ha detto intanto lotterò come un leone, e poi c'è Enrico Letta che se l'è presa molto con il Movimento 5 Stelle, inaccettabile le gogne ai giornalisti, non cavalcate la protesta, al che più scatenato è stato Riccardo Nuti, il deputato che è immortalato a pagina 3 del Corriere della Sera, urlante, viene trattenuto dai suoi colleghi, ma l'avete sentito anche in aula, lei ha la faccia come il bronzo, ha detto a Enrico Letta, e poi ai politici vi faremo sparire. Vi faremo sparire tutti in nome dei nostri figli. Insomma, è stata una giornata di parlamentari di quelle dove non si sono risparmiati i gesti e le battute. Racconta Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera che la battuta più sferzante è quella di Roberto Calderoli. Roberto Calderoli della Lega ieri ha detto, nonostante Enrico Letta abbia detto voglio combattere come un leone, la battuta di Calderoli che gira è questa: questo governo dura come un gatto sull'Aurelia. Questa è la battuta di Calderoli, insomma, che è anche un'immagine molto molto molto brutta, molto trash, però è un'immagine che Calderoli ha voluto così affidare ai cronisti parlamentari. E che cosa è successo? È successo addirittura, secondo Repubblica, che nel marasma un senatore del Movimento 5 Stelle, si tratta di Carlo Martelli, 47 anni, insegnante di Novara, si è alzato in piedi e ha mostrato il dito medio al presidente del Consiglio e poi è uscito dall'aula. Questo non rimarrà, ricorda Sebastiano Messina, pagina 2 di Repubblica, nei resoconti parlamentari, non rimarrà traccia della unica reazione immediata dei grillini al dito indice metaforicamente puntato contro di loro. Ed è allora da dito indice ha risposto, secondo Repubblica, Carlo Martelli con un dito medio. Ma sentite anche il retroscena di Andrea Malaguti, pagina 3 della Stampa. Parla Paola Taverna, capogruppo nel Movimento 5 Stelle, che ieri avevamo qui ospite, ovviamente fuori dall'aula, quindi sono frasi così virgolettate attribuite a lei. No, mollo devo di, se rifaceva quel gesto Letta gli davo una capocciata. Ma dico, lui, lo stesso che stamattina ce l'aveva con Nuti, ma dai! Il suono era quello, lo strascico romanesco del quarticciolo, un posto, ha aggiunto ancora Taverna, che fino a 4 anni fa si stava da favola, adesso è nuovo pieno di spacciatori e puttane che quando passo non mi fido e le devo girare la testa, Roma in crisi nera, così il paese, e Letta ci viene a prendere in giro. Questa è la senatrice Paola Taverna che racconta. Malaguti sfoggia un favoloso tailleur pantalone nero. Il gesto che ha fatto arrabbiare Paola Taverna è quando ha parlato un responsabile del Forza Italia e Letta, secondo Paola Taverna, ha fatto un gesto rivolto al Movimento 5 Stelle unendo i due indici, come dire ormai siete insieme voi del Movimento 5 Stelle e quelli di Forza Italia. Ecco, parla un senatore di Forza Italia e Letta guarda verso di noi e si sfrega gli indici come a dire ormai state assieme, capite? E no, non se può. Così Paola Taverna. Vabbè, è stata una giornata campale di scontri. E il senatore del Movimento 5 Stelle Nicola Morra, intervistato da Tommaso Ciriaco anche sulle accuse delle gogne nei confronti dei giornalisti, dice: guardi, davanti a Montecitorio era il Movimento 5 Stelle a ragionare con i manifestanti oggi, e comunque scusate, ma avete capito che la nostra presenza ha evitato il ritorno della stella a 5 punte? La gente è disperata, mi è capitato di aiutare di tasca mia la gente in Calabria, non vedo risposte dal governo, vedo irresponsabilità. Ecco, questo è il titolo dell'intervista di Repubblica. Serve prudenza, ma è grazie a noi che non tornano le brigate rosse. E vabbè, la fiducia è acquisita, ma ci sono due articoli che, come dire, cari italiani e cari ascoltatori, guardate qua. Il Messaggero, Sonia Oranges, pagina 3. Taglia i partiti, pronto il decreto, ma le province slittano. No! Ma come? Il taglio alle province pare che slitti. No! Oppure il Fatto Quotidiano, pagina 6, l'arrivo di Renzi non basta, i partiti salvano i rimborsi. No, ma come salvano i rimborsi? Marco Palombi, a pagina 6, eppure il buon Enrico Letta, tra le molte promesse riversate sui parlamentari, leggo dal Fatto, ha messo anche quella dell'abolizione del finanziamento pubblico alla politica entro il 2013. 2013, adesso! Cari italiani, siamo al 12 dicembre, mancano 20 giorni, entro il 2013. È solo che il Fatto Quotidiano chiede lumi e l'ANSA, soprattutto riporta l'ANSA che chiede lumi alla senatrice Anna Finocchiaro, perché questo provvedimento, il disegno di legge, è incardinato nella commissione dove c'è Anna Finocchiaro. Sorpresa, niente abolizione entro l'anno. No, ma come? Anna Finocchiaro risponde: non credo che si riuscirà ad approvare in aula il disegno di legge sul finanziamento ai partiti nel 2013. Non è al momento neppure iniziata la discussione e l'esame del disegno di legge. No, ma come? Ma allora non è proprio così. E vabbè, il dato di fatto è questo. In tutto questo la gente protesta. Ci sono i cosiddetti forconi nuovamente in piazza, ennesimo giorno. Allora, quello che sta facendo il giro è la foto di Danilo Calvani, 51 anni, uno dei leader della protesta, che a Genova ieri se ne va via sventolando un tricolore fuori da un finestrino di una fiammante Jaguar. Ora, niente contro la Jaguar, ma molti fanno notare che protestare, fare il capo della protesta dicendo c'è fame, c'è miseria, c'è crisi a bordo di una Jaguar, non è proprio lo spot migliore. Il leader del movimento Via sulla Jaguar era di un amico. Io sono un disperato, si difende così a pagina 7 di Repubblica. Non era mia, non ho intestato nulla, non era il mio autista, è solo un amico che mi ha dato un passaggio, un camionista. Ah, un camionista con la Jaguar, chiede Repubblica. Prende spesso passaggi lei? Sempre. Stavolta due, da Latina a Massa Carrara e poi con la Jaguar da Massa a Genova fino a Torino. Perché? Non ho una lira. La mia azienda è finita all'asta, pignorata per 80.000 euro, però ho 4 figli tra gli 8 e i 25 anni, veda lei. Ma si difende così, addirittura diventa in un quarto d'ora di Vuoroliana celebrità, prima pagina del giorno, Danilo Calvani, il forcone, com'è il titolo? Il forcone viaggia in Jaguar. Ma anche il Fatto Quotidiano, pagina 3, il contadino in Jaguar che fa il leader, viene giù tutto. Insomma, ci sono queste promesse di dire forconi, caos e violenze, ora tutti a Roma in tir. Questo a pagina 4 del Secolo XIX. In realtà il quotidiano La Stampa, con Guido Ruotolo, fa sapere che c'è molto timore all'interno del Ministero degli Interni. Perché? Perché non si sa bene davvero chi siano le persone che animano questa protesta. Gli 007 temono gli estremismi trasversali, così Guido Ruotolo, a pagina 7. Il Viminale dice: la situazione sembra fuori controllo. Si lancia un appello alla piazza prima che sia troppo tardi, lo fa il ministro Angelino Alfano. Non avremo nessuna remora a reprimere intimidazione o minaccia alla libertà degli altri. Racconta Nicolò Zancan, sempre sulla Stampa, che c'è un mix anche, per esempio, delle persone arrestate a Torino, 6 arrestati, 2 pregiudicati, un fanatico dei rave party, un barista, un cassintegrato. Insomma, l'identikit delle persone arrestate è così, una serie di persone da sfaccettature molto molto diverse. Chi non li ha incontrati è stato Silvio Berlusconi. Alla fine è stato consigliato alla maggiore prudenza. Berlusconi sceglie la prudenza, non cavalcherò il populismo. Questo è il titolo di pagina 3 del Giornale, ad Alberto Signore. Pare che la telefonata decisiva sia stata quella di Paolo Uggé, oggi vicepresidente di Confcommercio, ieri sottosegretario alle infrastrutture proprio nel governo Berlusconi, a dirgli: guarda che è sbagliata questa mossa. Aveva convinto Silvio Berlusconi, pare, Daniela Santanchè, ma a incontrare questi manifestanti, ma in realtà poi ieri è tutto saltato. L'episodio peggiore è stato certamente a Savona, come racconta Repubblica Marco Preve, dove c'è stata un'incursione shock in una libreria. Bruciate tutti i libri, questi tengono aperti, chiudete tutto, la libreria, e bruciate i libri. Il titolare del negozio racconta sconvolto: ci hanno urlato così, chiudete la libreria e bruciamo i libri. Io e i miei colleghi gli abbiamo risposto: ma andate a studiare. Uno di loro è rientrato, ha urlato qualche frase, poi sono andati via. Vabbè, la situazione è questa, discretamente caotica, certo sono minoranze, la stragrande maggioranza del paese anche oggi si sveglia e chi ha un lavoro va a lavorare o fa le commissioni normali. Voglio salutare Mauro Meazza del Sole 24 Ore. Mauro, buongiorno. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, questa è un po' la fotografia, anche se la fotografia è una fotografia e quindi racchiude uno spaccato, piccolo o grande che sia. Oggi sul Sole invece che cosa ci raccontate? Ma allora, tornando a quell'invito, andate a studiare, che mi pare sia stato molto efficace, no? È abbastanza. Ecco, allora ci sono un po' di cose da studiare, se vuoi. A parte queste 104.000 aliquote sostanzialmente che gravano sui comuni per l'IMU, però queste non te le chiedo perché mi sembra davvero 104.000. No, comunque è per dire, attenzione, leggete con attenzione attualmente il Sole 24 Ore, abbiamo anche sempre in edicola una guida sul saldo IMU, perché è molto facile sbagliare davvero, chi ha seconde case, negozi, uffici, capannoni, è complicato. Quindi insomma è bene informarsi, l'articolo su oggi sul Sole descrive bene la situazione. Poi, se tu per caso ti fossi dimenticato dei soldi all'estero e ti sei dimenticato di dirlo, sì, a Mirko, sì, non so se ti è capitato. No, non mi è capitato. Può succedere. Sì, sì. Ecco, allora sappi che stanno preparando un piano di rientro dei capitali, diciamo un po' all'inglese questa volta, voluntary disclosure. Però insomma la sostanza è che si può, come dire, cambiare idea, ritornare indietro. Stanno preparando un provvedimento che consenta in qualche modo, come era stato lo scudo fiscale qualche anno fa, esatto, di riportare, di sanare la dimenticanza. L'accusa è sempre quella, Mauro, di fare il paese dei condoni, poi chiamate anche scudo fiscale, o questa è una cosa diversa? No, la questione ci sta tutta, il fatto è che purtroppo andare a recuperarli quando sono andati via non è così facile, ecco. Quindi vedremo se già domani con il piano di destinazione Italia di cui riferiamo oggi sul Sole, vediamo se ci sarà qualche misura in questo senso, sì, o invece nei giorni prossimi. Ah, hai visto le Moncler? Sì, tu avevi messo 2 euro lì sopra? No, non avevo messo lì 2 euro, ma ho visto il successone clamoroso. Ecco, ma non puoi tenere sempre questi 2 euro fermi. Vabbè. Non è che me li presti per l'IMU, perché io avrei un problemino di liquidità. Sì, entro il 16, vai poco lontano, caro Mauro. Ma sto chiedendo un po' in giro, magari gli ascoltatori, non lo so. Fa un crowdfunding per crowdfunding per pagarmi l'IMU, potrebbe essere un... Avrà un successore, credo, avrà un successore. Bene, questo è un po' quello che abbiamo, diciamo, in evidenza. Poi naturalmente, come sai, ci sono c'è sempre anche questa parte tablet molto importante, digitale molto importante, c'è il quotidiano del diritto, lo dico per tutti quelli che si occupano di questa materia. Lo trovate adesso in consultazione gratuita, www.quotidianodiritto.ilsole24ore.com, per qualche settimana in consultazione gratuita, poi sarà un prodotto solo in abbonamento. E allora, Mauro, io ti ringrazio. Niente su teatro, cinema, abbonamenti, il mercoledì scontati, niente. No, per i tifosi tipo interisti, juventini, napoletani, niente, vabbè, niente. Ah, ma quella cosa lì del rientro dei capitali era anche un po' il rientro delle squadre. Vabbè, lasciamo stare, esatto. Dai. Sulla politica c'è da dire che vabbè, ancora continuano gli articoli su Renzi, Matteo Renzi, cambiamenti del PD. Quello che vi segnalo oggi sono due interviste, due che la presidente della commissione antimafia Rosi Bindi fa al Corriere, al Messaggero. La più scoppiettante è proprio quest'ultima, al Messaggero, intervistata da Claudia Terracina. Dice Rosi Bindi: terrò botta, l'ho detto pure a lui. E poi le riunioni alle 7 non fanno per me. Sono Rosi Bindi che dice: io non volevo candidarmi alle europee, ci mancherebbe, faccio la presidente commissione antimafia. Insomma, risponde all'accusa, non è come la Volpe l'uva, perché adesso Renzi ha detto né lei né D'Alema candidati all'Europarlamento, ma va, faccio questo. E poi, come sempre a modo mio, con schiettezza gliel'ho detto quando mi ha chiamato: come farai, Rosi, a resistere a Letta, Palazzo Chigi e me al partito? Ma tanto durerete un anno. Questa rivelazione l'ha fatta già Matteo Renzi, per la verità, e comunque non gliel'ho mandata a dire. Sentite Rosi Bindi: figuriamoci, ho sopportato per 20 anni Berlusconi, un anno con questi due ragazzi non mi fa certo spavento, il tempo vola, son sicura che terrò botta. E poi ho molto altro da fare. Certo, sono contenta di non essere parte della segreteria del PD perché le riunioni alle 7 del mattino non fanno per me, non sono compatibili con il mio metabolismo. Eccola lì, Rosy Bindi, alle 7 del mattino, non gliela fa. E che dire invece per quel che riguarda Silvio Berlusconi, a parte non incrociare, non incontrare i forconi, ieri c'è stata la reazione di Marina Berlusconi dopo l'anticipazione del Corriere della Sera che De Benedetti con la CIR chiede altri 30 milioni a Fininvest. E allora la rabbia di Marina Berlusconi, la vicenda è lodo Mondadori, la rabbia di Marina Berlusconi ripresa dalla prima pagina del giornale, De Benedetti ci hanno preso gusto. Sono sicuri di contare su una giustizia ingiusta, considerano ormai Fininvest come un gigantesco bancomat. E dunque riparte questa di sfida. Io voglio però raccontare, lo fanno tutti i giornali, quello che è stato secondo molti il funerale più pazzo del mondo. Ma che è successo al funerale di Nelson Mandela? Allora, intanto c'era un interprete dei segni del linguaggio per sordi che era un impostore, cioè faceva dei segni a caso. Ora si è scoperto che si è infiltrato una persona che assolutamente non sapeva nulla di questo linguaggio per sordi e che ha trovato il modo da impostore di infilarsi e andare proprio nel cuore lì del potere a due passi dal Presidente della Repubblica del Sudafrica per fare dei gesti assurdi. Tanto che Libero titola così: al povero Mandela è toccato il funerale più pazzo del mondo. Il Messaggero, il mistero del falso traduttore, cioè uno che è andato a due passi da Barack Obama. A due passi, fosse stato un attentatore, cioè sarebbe stato un gioco da ragazzi fare un attentato, ma a due passi da tutti i leader di Stato. E poi cos'è successo? Il selfie di Obama. Ma l'avete vista la foto che ride con Cameron e ride con la premier danese Thorning Schmidt, una bellissima donna? E c'è questa foto, cioè, impressionante, di Obama che ride, fa il selfie, cioè si fanno l'autoscatto e ridono e tocca con una mano sulla spalla la premier danese, e dovete vedere la faccia di Michelle Obama a fianco, lo sta incenerendo con lo sguardo, tanto che il giornale, secondo me per una volta opportunamente, mette un commento in prima pagina proprio di questo: Michelle è una di noi, Valeria Bragheri. La gelosia unisce First Lady e casalinghe. Avesse potuto accendere come uno zolfanello quella sua testa bionda, star lì a assistere alla combustione, sarebbe stata la donna più felice del mondo. Con lo sguardo ci ha provato ad appiccare l'incendio. Michelle Obama, quando ha visto il presidente, marito Barack, scherzare e ridere con la premier danese lì a fianco, e cosa ha fatto? Si è messa in mezzo. Si è messa in mezzo, ha chiesto al marito di invertire il posto, si è messa in mezzo tra la premier danese e il marito, che nella foto successiva hanno delle facce corrucciatissime. Ma insomma, vabbè, ma questo mi porta a citare il titolo del giorno. Guarda qua che è rispuntata la Gazzetta, torna. Sì, il Milan c'è! Questo è il titolo della Gazzetta dello Sport. E le altre? Boh, Coppa del Nonno, Coppa Italia, Coppa Davis, non lo so. Comunque il Milan è l'unica squadra rimasta negli ottavi di finale. Sì, ieri molti rosiconi mi hanno scritto su Twitter: sì, vabbè, ma prenderete una granuola di gol adesso negli ottavi. Ma può essere, anzi sarà sicuramente così, certamente così. Però così, in questo 12 dicembre, va bene così, ci accontentiamo. Ma siamo al momento conclusivo. Il momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali. Andrea Nicastro scrive un'intera pagina sull'arte di educare i figli. Beh, un tema importante. Di chi? Sulla mia isola dei Caraibi, del miliardario milionario Richard Branson, a Necker Island, il padron della Virgin, che è indeciso se farli giocare o andare sulla jacuzzi o su un jet privato e portarli in Svizzera, o magari fare un giro, un kitesurf in motoscafo, in mongolfiera. Ma ma ci rendiamo conto che la carta costa anche perfino al Corriere della Sera, oppure no? Andrea Nicastro, dai.